Mercoledì 4 luglio, intanto i titoli sono tutti sul tema revisione della spesa, sarà una settimana così. Tagli su statali, affitti pubblici, chiusura per 216 mini ospedali. Questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Ovviamente sono tutti annunci, cioè sono ipotesi quelle che si leggono. Via uno statale su 10, così titola in apertura il Corriere della Sera. Anche questo, cioè sono le bozze dei provvedimenti che venerdì dovrebbero andare in Consiglio dei Ministri. Repubblica, sanità e statali, ecco tutti i tagli. La Stampa, tagli, tocca statali e sanità. Il Giornale, basta, adesso tagliate. Il Messaggero, sanità e statali, tutti i tagli. L'Unità, scure del governo sugli statali. Avvenire, lo Stato a dieta stretta. Il Manifesto, c'è una foto di statali, un ufficio pubblico, nemici pubblici, la scure dei tagli per evitare la mannaia dell'IVA. Gli unici quotidiani che aprono su qualcosa di diverso, Libero, sconti benzina con la fregatura, li paghiamo noi. Il Fatto Quotidiano, il Corriere infanga i PM di Palermo, incastrano innocenti. Questa l'apertura del Fatto Quotidiano. Allora, io vorrei andare con una notizia intanto che trovate su Repubblica, visto che così vi mettete di buon umore. Si parla di tasse, però forse c'è una sentenza, perché l'Italia è il paese dove il cavillo, dove la burocrazia la vince sempre. Questa volta però il cavillo potrebbe andare a favore di molti contribuenti che hanno dei problemi con Equitalia. Repubblica, pagina 17. A rischio milioni di cartelle Equitalia, non valide se arrivano per posta. State tranquilli, non è che adesso immagino già le persone che mi scriveranno dove ha letto quest'articolo, tutti quelli che ovviamente hanno ricevuto una cartella Equitalia per posta. Comunque Fabio Tonacci racconta che milioni di cartelle esattoriali di Equitalia sono appese all'esito di una contesa tra giudici, da una parte la Cassazione che considerano valida la notifica per posta con raccomandata ricevuta di ritorno, dall'altra decine di giudici di pace da nord a sud che annullano quelle cartelle di pagamento, perché la motivazione è questa: secondo i giudici di pace deve obbligatoriamente essere un ufficiale giudiziario o un messo comunale a notificare al contribuente. Questione cavillosa, per l'appunto, ma che può fare una differenza enorme. Lo sa bene una ex impiegata di Genova in cassa integrazione: in un anno aveva accumulato 8.000 euro di debito con l'erario per multe non pagate. Equitalia stava per procedere al fermo amministrativo dell'automobile, lei però ha fatto ricorso sostenendo che gli avvisi fossero irregolari e il suo appello è stato accolto da un giudice di pace che l'ha salvata dalle ganasce fiscali. Sentenza 4486 del giudice di pace di Genova, pubblicata il 27 giugno. In base a un decreto del 73, Equitalia non è considerata soggetto abilitato alla notifica diretta degli atti, deve quindi appoggiarsi agli ufficiali delle riscossioni, alle polizie municipali e ai messi comunali. Quindi questa è la motivazione del giudice di pace, per cui annullate queste richieste, considerate nulle. Ovviamente Equitalia dice non illudiamo gli italiani, non bisogna illudere le persone, spiega per esempio Paola Conforti, che è responsabile legale di Equitalia. La Corte di Cassazione negli ultimi anni ha tenuto un orientamento costante e univoco, le notifiche via posta sono valide, però alcuni giudici di pace dicono di no. Certo, verrebbe da dire, uno se evita di non pagare le multe e le paga non ci sono questi problemi, però già vi sento, insomma Equitalia per molti è vessatoria e quindi c'è gente che le multe, una multa non la può pagare, c'è gente che una multa magari l'ha dimenticata e per questo entra in un circolo vizioso e si sente perseguitato. Sta di fatto che insomma leggetevi questo articolo di Repubblica e se credete di avere una qualche ragione fate ricorso al giudice di pace, che vi devo dire. Sta di fatto che Repubblica titola così: a rischio milioni di cartelle Equitalia. Mi ha incuriosito invece questo titolo d'apertura di Libero, perché sapete che si sta diffondendo molto di più l'idea, col prezzo che c'è della benzina, di molte persone che vanno a fare la benzina il sabato e la domenica, credo quando molte aziende, molte compagnie petrolifere fanno degli sconti. Tutto legittimo, tutto giusto, tutto sacrosanto. Il problema, titola Libero in prima pagina: gli sconti benzina con la fregatura, li paghiamo noi. E che diamine, cioè, che, come mai? Beh, Libero mette questa storia in prima pagina, l'articolo di Attilio Barbieri, ed è certo su questo. Il carburante è meno caro nei weekend perché in settimana il prezzo sale oltre la media. Cioè, secondo Libero, che è andato un po' a esaminare i prezzi della benzina e poi mette in prima pagina appunto il titolo e poi l'articolo continua a pagina 9, c'è il trucco dietro gli sconti benzina. Si fanno i ribassi nel weekend fino a 20 centesimi al litro, ma le compagnie poi cosa fanno? Alzano i listini soprattutto il lunedì e il martedì per riequilibrare i margini che sono sopra la media. Kuwait per esempio aumenta di un centesimo, IP di 0,5. Danneggiato chi usa il camion e l'auto solo per lavoro. Insomma, Attilio Barberi scrive: appena dopo il weekend i super sconti da 20 centesimi al litro, i carburanti tornano ai prezzi soliti, anzi rincarano ulteriormente. A ritoccare all'insù le quotazioni alla pompa sono state in particolare due compagnie, la Kuwait con un aumento di un centesimo al litro sia sulla benzina che sul gasolio, e la IP che ha applicato un rincaro di un centesimo su diesel e mezzo centesimo per la verde. Ecco spiegato il meccanismo che consente ai petrolieri le vendite sotto costo il sabato e la domenica, salvando al contempo i margini e il conto economico a fine anno. Cioè, scrive Libero, quel che si perde nel fine settimana si recupera abbondantemente dal lunedì al venerdì. Vabbè, la storia la trovate a pagina 9. Visto che ho parlato di tasse, la cito velocemente. Problemi con il fisco per un'altra campionessa, in questo caso dello sport, ex campionessa Isolde Kostner. Fisco, Kostner alla sbarra, racconta La Stampa questa notizia. Maurizio Di Gian Giacomo da Bolzano, l'ex campionessa di sci, tra 7 giorni sarà in aula. Lei dice: è una beffa, la vittima sono io, sono stata truffata da un intermediario sbagliato. Sta di fatto che dopo aver appeso gli sci al chiodo nel 2007, la prossima settimana farà una delle gare più difficili della sua carriera, 12 luglio, udienza al GUP del Tribunale Militare di Verona. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla procura nei suoi confronti e anche nei confronti della collega di sci e anche lei delle finanze, Denise Carbon, tra l'altro sono entrambi in guardia di finanza, entrambe in guardia di finanza, per cui insomma accusa doppiamente pesante, no? Accusate di avere sottratto al fisco forti somme. In un primo tempo si era parlato di 2 milioni di euro per Isolde Kostner e 450 mila euro per Denise. In concorso con il loro agente, che nei giorni scorsi ha patteggiato un anno e mezzo, la campionessa però gardenese è pronta a combattere, a difendere il suo buon nome. È una beffa per lei questa inchiesta, che giunge dopo il danno di aver visto sparire i cavi di contratti di sponsorizzazione di un'intera carriera. Beh, quindi se fosse così, davvero beffata due volte. L'inchiesta è nata dalla mia denuncia nei confronti dell'intermediatore finanziario Roland Costa, spiega Isolde Kostner. A lui avevo concesso tutta la mia fiducia, gli avevo fatto gestire le sponsorizzazioni di un'intera carriera senza esercitare alcun controllo. Quando ho smesso di sciare, gli ho chiesto conto del suo operato e lui mi ha risposto che non era rimasto nulla a causa di alcuni suoi investimenti sbagliati. Non so nemmeno quanti soldi mi abbia fatto sparire. Beh, davvero accusata da una parte di aver evaso il fisco, lei che sta nella guardia di finanza, e lei che invece contropropone questo dramma personale, cioè dice: ho denunciato io questo intermediario, anzi mi ha fatto sparire tutti i soldi, non so neanche quanti ne ho persi, quelli di un'intera carriera. Così la vicenda di Isolde Kostner. Allora, tutta la settimana sarà imperniata, per quel che riguarda la lettura dei giornali che comprerete, sui temi dei tagli della spending review. Ieri il governo ha incontrato le parti sociali, le regioni, gli enti locali, e Monti ha detto: non useremo l'accetta. Questa è la parola d'ordine che trovate nel titolo a pagina 5. E l'altro tema sul quale c'è il dibattito politico è quello sui tagli agli statali. Allora, c'è da dire che se voi guardate i giornali, come detto, nelle prime pagine subito capite, non so, giornali come Libero o Il Giornale, orientati più sul centrodestra, Libero: caro Monti sugli statali, l'accetta ci vuole. C'è anche un disegno di Monti che usa l'accetta per decollare Susanna Camusso, leader della CGIL. e così il giornale, basta, adesso tagliate. Invece se guardate l'Unità e il Manifesto, giusto per fare raffronti di giornali diciamo che la pensano in maniera opposta politicamente, l'Unità scure del governo sugli statali e il Manifesto invece nemici pubblici, e sarebbero gli statali, c'è la foto di un ufficio pubblico, potrebbe essere una posta, una banca, no, non una banca ovviamente, ma una posta o un ufficio simile, la scure dei tagli. Non useremo l'accetta, sta di fatto che racconta Marco Mobili, pagina 5 del Sole 24 Ore, il taglio del 20% dei dirigenti della pubblica amministrazione, il 10% dei dipendenti, un altro 20% di consulenze. Questa sarebbe la ricetta estesa a tutte le amministrazioni nel rispetto delle autonomie per ridurre da subito i costi della pubblica amministrazione. Questa è stata la conferma. Il problema è che è stata una bozza per il momento, un po' fumosa, cioè non c'è un documento scritto, e poi forse quello che non ha gradito le parti sociali, alcune parti sociali, è stato il tipo di contrattazione, cioè che non è stata una contrattazione ma più un'informativa, cioè come dire vi convochiamo, basta la concertazione, vi convochiamo e vi diciamo che faremo così. Va bene? Sì. Non va bene? Arrangiatevi. E infatti su questo l'articolo più interessante è quello di Enrico Marro a pagina 5 del Corriere della Sera, il rigore di Bondi e i sindacati spiazzati. Sono stati chiamati a cose fatte regioni ed enti locali, imprese, sindacati. Mario Monti ha convocato ieri mattina a Palazzo Chigi, leader delle categorie, per una informativa, una comunicazione di ciò che il governo si appresta a fare con l'operazione Spending Review. Niente di più. A incarnare anche fisicamente la Spending Review ieri mattina era Enrico Bondi, il manager chiamato da Monti per preparare il pacchetto di tagli alla spesa per acquisto di beni e servizi della pubblica amministrazione. 77 anni, si è presentato con un vestito nocciola chiaro, mocassini marrone scuro consumati, pallido, magro. Si siede tra due abbronzatissimi azzimati Antonio Catricalà e Vittorio Grilli e già il look è da gabinetto di guerra. E quando tocca a lui... lui comunica, capito? Attenzione all'utilizzo dei verbi, comunica, non è che tratta, comunica che su 60 miliardi di spesa che ha visionato si spreca dal 20 al 60% e quindi si potrebbe già qui tagliare tra i 12 e 36 miliardi di lire. A un certo punto, racconta Enrico Marro, la situazione diventa tesa. Susanna Camusso si spazientisce. Non immaginavamo una comunicazione così criptica, insufficiente, al limite della reticenza, dice. Al che Mario Monti, gelido, replica: dottoressa, sapesse quante cose raccontano anche a noi. E, insomma, questo è il tenore per il quale il governo viene soprattutto criticato, cioè ha chiamato le parti sociali a dire basta con la vecchia concertazione, vi comunichiamo che faremo così. A me non dispiace, però insomma questa è una mia opinione personale. Tagli alle autonomie per 7,2 miliardi, questo è il titolo di pagina 10 del Sole 24 Ore, che oggi dedica molte pagine, un dossier proprio tutto sulle ipotesi di tagli sulla Spending Review. Un altro tema interessante, Roberto Turno a pagina 7, colpo di forbice sui piccoli ospedali. Secondo la bozza dei documenti, addio a 216 ospedali con meno di 120 posti letto. Entro fine ottobre le mini strutture di ricovero potrebbero dover cessare l'attività ed essere chiuse dalle regioni, che non potranno destinare i volumi di spesa né ai privati né ai policlinici universitari o ad altre strutture pubbliche. Poi chiuderanno i tribunali o i mini tribunali, chi lo sa? Questo si vedrà venerdì. Certo, l'ira di Susanna Camusso è espressa in un'intervista a Repubblica, pagina 9, Roberto Mania la intervista. Delusa o arrabbiata? La prima domanda. Tutte e due non si può? La risposta di Camusso. Sono delusa per il fatto che dal governo ci sia stata un'informativa reticente e criptica. Eccolo qui. Allora è vero quello che ha detto a Monti, scritto sul Corriere. Non c'è stata fornita nemmeno l'entità del decreto e in più il metodo è inaccettabile, si esaurisce tutto in queste informazioni senza alcun confronto sulle conseguenze per i lavoratori. C'è una progressiva riduzione del ruolo delle parti sociali. Insomma, un attacco ai lavoratori, così Monti ci fa sprofondare, dice Susanna Camusso, un altro che... non fa interviste ma prende carta e penna e firma l'editoriale di prima pagina della Padania è Luca Zaia, governatore del Veneto. Caro professore, ho risparmiato un viaggio inutile, così scrive Zaia, ho deciso di risparmiare il biglietto aereo e il pernottamento a Roma, visto che parliamo di spending review, per un incontro sulla revisione della spesa completamente inutile. È una presa in giro che il governo ci convochi per parlare di qualcosa su cui, a suo stesso dire, non ha nulla da contrattare. Ma sul tema dei tagli alla sanità, che per Roma dovrebbero essere nell'ordine di 2 miliardi almeno, non abbiamo intenzione di cedere di un solo millimetro. Siamo la regione più virtuosa d'Italia sulla spesa sanitaria, a dirlo è lo stesso governo, ma si profilano riduzioni come se fossero i più spreconi. Come se fossimo i più spreconi, con una previsione di almeno 600 milioni in 3 anni, ossia 200 milioni l'anno. Insomma, Luca Zaia scrive, nel tutto l'intervento poi è pubblicato a pagina 3, caro Premier, il Veneto non ci sta, ci ribelliamo, questo ai tagli. Certo, per 24 ore, cari italiani, avete sognato che ieri Repubblica scriveva così, c'è l'ipotesi di bloccare per 18 mesi le tariffe di acqua, luce, gas, autostrade, ferrovie. Questa è... Sveglia, quando mi dicono così, sveglia, è stato un sogno, cucù, ve l'avevano detto, ma in realtà ieri il governo ha detto non si può fare, impossibile bloccare le tariffe, così a pagina 5 della Stampa. Passerà, il governo non interverrà. Non avrebbe senso, l'articolo di Paolo Baroni, bloccare per 18 mesi tutte le tariffe, acqua, luce, gas, telefoni, ferrovie, autostrade, bello, soprattutto considerando che quest'anno la bolletta elettrica è già cresciuta del 16,2% e del gas del 14,2%, che le autostrade in 2 anni sono rincarate del 13%, l'acqua del 16%, le ferrovie del 12%, ma è impossibile. Ecco, mettetevi questa parola bene in testa. L'ha fatto sapere il ministro Passera. E dunque, voi che speravate, invece vi siete svegliati oggi. Detto questo, c'è anche oggi la pagina farsa sulle province. Oggi la firma Carmelo Lo Papa su Repubblica, pagina 7, province, colpo di acceleratore, già venerdì l'ok alla riduzione. Non si capisce se è la Repubblica del 1982, no, è quella del 4 luglio 2012, sta di fatto che venerdì viene annunciato l'accorpamento delle province con risparmio di 1 miliardo l'anno, si scrive accorpamento ma si legge soppressione, si prepara per le province la tagliola, così scrive Carmelo Lo Papa. Che dite, ci credete questa volta? Allora, pare, buone notizie, pare, ma finché non arriveranno i soldi io vi consiglio di non crederci. Pare buone notizie per la tranche del finanziamento che dovrebbe andare ai partiti, e metà di questi soldi sono stati promessi ai terremotati dell'Emilia. Soldi dai partiti ai terremotati, sprint in aula, pagina 15 del Corriere della Sera. Intanto avevano chiarito ieri che c'è ancora tempo. Se si vuole fare questa cosa, era falsa evidentemente la deadline di inizio luglio. E quindi 165 milioni di euro, 91 nel 2012 e 74 nel 2013, quindi per un totale, ripeto, di 165 milioni di euro, verranno travasati dalle casse dei partiti a quelle dei comuni colpiti dal terremoto dell'Emilia. La prima commissione del Senato, con un colpo di reni, ha impresso una forte accelerazione alla legge che dimezza il finanziamento pubblico per i partiti, il cui approdo in aula a Palazzo Madama è previsto oggi pomeriggio per l'approvazione definitiva. Carlo Vizzini, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, ha detto: abbiamo approvato il testo sul taglio del finanziamento ai partiti in sole 2 ore, siamo stati più veloci di un decreto legge e già oggi pomeriggio andremo in aula. Vedremo, promessa mantenuta del PD, dice il PD, mentre la Lega non ha votato questo provvedimento. In ogni caso staremo a vedere e vi informerò, se i giornali ne daranno conto tutti i giorni, su questa tranche di soldi che invece i partiti dovrebbero andare ai terremotati. Gianfranco Fini lo aveva detto un paio di giorni fa, da oggi sono in campagna elettorale, e infatti fa la prima intervista sulla Stampa, intervistato da Ugo Magri. parla di varie cose, tra cui le alleanze. Se c'è Vendola non ci stiamo. Così dice Fini, anche Casini la pensa come me: nel 2013 ripartiremo dal lavoro di Monti. Un Fini che dice le elezioni in autunno causerebbero all'Italia danni inimmaginabili, per quanti irresponsabili possano esserci in giro escludo che vogliano spingersi a tanto. Semmai vedo un altro rischio, che l'ultimo scorcio di legislatura, anziché spingere PD e PDL a sostenere il governo, li renda sempre più interessati a piantare bandierine qua e là. Mi auguro che resistano alla tentazione. Cosa succederà dopo Monti? C'è grande incognita, dice Fini. Mi auguro che venga superata con la nuova legge elettorale, con alleanze che nascano dai programmi, dalle cose da fare. E riguardo le alleanze, dice, se c'è Vendola, noi non ci stiamo. E credo che Casini la pensi esattamente come me. Così Gianfranco Fini, presidente della Camera e capo del cosiddetto terzo polo. Sulla Lega invece, interessante la pagina del Giornale, a pagina 11, insomma la Lega ormai è sempre più debossizzata, anche dai simboli si capisce. La Lega sbianchetta Bossi, via dalle foto, racconta Paola Setti. La parola d'ordine è proprio questa sul Giornale, a pagina 11: debossizzare. Il giorno dopo la detronizzazione di re Umberto I dall'esercito di Bobo, in via Bellerio pare di stare nella vecchia Unione Sovietica, quando si cancellavano i segni del vecchio dittatore per far spazio a simboli del successore. E allora la storica effigie di Bossi, dopo il congresso, è scomparsa dal sito internet. Ora lì campeggia solo l'immagine dell'elezione al segretario di Maroni. Il quotidiano La Padania si avvia verso la chiusura. Riaprirà i battenti con un direttore più irregimentato, un nuovo nome e forse solo sul web. Cambiata anche la capo ufficio stampa, sarà Isabella Votino di via Bellerio, portavoce di Bobo Maroni, ora in forza anche alla Camera. Verrà eliminato il simbolo del sole delle Alpi, che già il congresso di Assago non faceva più padana mostra di sé sul palco. Insomma, una Lega nuova anche da questi simboli che spariscono e altri ne appaiono, debossizzata. Che è successo invece in Rai? Una fumata nera. Allora, è andata così. Dovevano votare ieri i membri del consiglio di amministrazione in commissione vigilanza della Rai, e uno non identificato, un deputato del centrodestra, ma non identificato, evidentemente perché si voleva opporre alla nomina di Verro, che era il candidato, uno dei candidati dell'attuale CDA e da riconfermare per il Popolo della Libertà, ha scritto sulla scheda Verri, ma l'ha fatto chiaramente apposta, cioè invalidando così la votazione. Tanto che Marco Mele sul Sole 24 Ore dice è una farsa. Nel corso della prima votazione su una scheda è scritto Verri anziché Verro. E ovviamente PDL e Lega hanno chiesto e ottenuto l'annullamento della votazione. Poi alla seconda votazione c'è stata un'altra sorpresa, nel senso che nella seconda votazione il dissidente del PDL, quello che evidentemente ha votato Verri, ha votato scheda bianca, ottenendo così un pareggio con 4 voti ciascuno tra Pilati e Piccoli Nardelli, cioè 2 candidati. Insomma, tutto rinviato e si voterà oggi sul nuovo consiglio di amministrazione. Voglio chiudere con che cosa? Beh, ancora un minuto. Sì, per dire, ma due notizie. La prima è che Placanica, ricordate Mario Placanica, ex carabiniere prosciolto per la morte di Carlo Giuliani durante il G8, è stato rinviato a giudizio per avere una brutta storia. Ieri pomeriggio l'accusa è violenza sessuale ai danni della figlia minorenne della sua ex convivente. La storia la trovate su Il Secolo XIX a pagina 9. E poi io ho twittato così in maniera un po' simpatica il mio account @AlinoMilan. Per il secondo giorno sembra la notizia più interessante dei giornali la vicenda telenovela Balotelli, Fico, Bebè in arrivo. Balotelli non si fida, altro che la Fico gli ha detto è tuo figlio e lui era contentissimo. Balotelli che ieri ha detto parlerò una volta oggi e mai più di questa storia. La mia relazione con lei è finita, sono rimasto deluso, l'ho scoperto da altri che lei è incinta e ora voglio sapere se è mio figlio prima di assumermi evidentemente l'eventuale responsabilità. Se papà non si fida, è boom per il test della tranquillità. Così pagina 22 della Stampa mette altri casi: Diego Armando Maradona, Justin Bieber, Alberto di Monaco. E anche sul giornale: Balotelli all'attacco, voglio sapere se sono io il padre. Il rompipallone di Gene Gnocchi, la fico prima della partita con la Germania, ho detto a Mario che ero incinta. Prima della Spagna gli ho detto che non era il suo.